chissà se m'ami oppure no, chi lo può dire? Chissà se un giorno anch'io potrò l'amor capire. Ma quando tu mi vuoi sfiorar con le tue mani, avvinta come l'edera, mi sento a te. Chissà se m'ami oppure no, ma tua sarò. Tue braccia ancora vinta come l'edera, son qui, respiro il tuo respir, son l'edera legata al tuo cuore, sono folle di te. Creerò la vita. Consacrerò.